Cosa fa la differenza tra la vita di oggi e quella di 50 anni fa? Se si pensa all'elettricità, ai telefoni, alle automobili, alla radio, alla plastica, si risponde la scienza. Eppure, già 2000 anni fa esistevano gli scienziati, una grande civiltà scientifica fiorì in Grecia prima dell'attuale tempo storico. Le sue rovine sono visibili oggi a Creta e sulla terraferma. Nessuno conosce nemmeno il nome delle persone che l'hanno creata. Le loro case avevano riscaldamento centralizzato, l'impianto idraulico moderno, le donne indossavano abiti moderni. Esiste un'interessante leggenda sull'uomo che costruì le ali, volò da Creta verso la Sicilia e cadde in mare. Questo popolo non aveva armi da guerra. Le rovine mostrano che uomini armati attaccarono improvvisamente e bruciarono le loro città e, come si dice, spazzarono via la loro civiltà. Quando per qualsiasi motivo gli uomini smettono di creare una civiltà, molti di loro continuano a vivere e a crescere i propri figli. I cretesi di oggi non sono greci, gli albanesi non sono greci, i macedoni non sono mai stati greci, nessuno studioso europeo conosce l'ascendenza di Aristotele, ma certamente il suo punto di vista non è greco. I montanari albanesi analfabeti dicono che era albanese e vi danno la sua ascendenza per una dozzina di generazioni, qualunque cosa valga. Suo padre era medico di corte di Amintas II, re di Macedonia. Aristotele frequentò la migliore università, l'Accademia di Platone, ad Atene. Non aveva alcun interesse per Platone. Fece da tutor al giovane Alessandro Magno e cercò di insegnargli il buon senso. E quando Alessandro partì alla conquista del mondo, Aristotele lo lasciò e fondò una scuola di scienze. Questa fiorì finché il successore di Alessandro non la soppresse. Aristotele continuò tranquillamente la ricerca scientifica. In nessun secolo conosciuto sono mai mancati gli scienziati. Ogni volta che l'autorità era debole, gli uomini aprivano scuole di scienza. Poi un sovrano più efficiente le sopprimeva. L'imperatore lo fece di nuovo nel VI secolo e nei libri di testo si legge che la scienza è morta in Grecia. Più tardi si apprende che la scienza, morta da 900 anni, rivive o si risveglia in Italia. Tutte queste frasi sono sciocchezze. Successe che poco prima che Maometto si ritirasse dagli affari, la polizia chiuse tutte le scuole di scienza dell'impero bizantino. Uno scienziato poteva stare zitto o sedersi in una prigione o andarsene dall'impero se ci riusciva. Naturalmente moltissimi ne uscirono. A ovest Roma era una città fantasma e i delinquenti si aggiravano per l'Europa. Il nord era barbaro e a est la Persia era in un momento relativamente liberale. Gli scienziati andarono dunque in Persia. A sua volta l'energia dell'impero bizantino stava venendo meno sotto un governo forte. I persiani attraversarono di nuovo l'Asia Minore e questa volta sentirono la dichiarazione di Maometto che gli individui sono liberi. Gli uomini che ci credevano non potevano essere soppressi. Nel giro di un secolo il mondo musulmano comprendeva l'India, la Persia, l'Arabia, la Siria, la Palestina, l'Egitto e tutta l'Africa settentrionale fino all'Atlantico, Gibilterra, la Spagna, le isole Baleari, la Francia meridionale e l'Italia meridionale e le isole italiane. Circondava il Golfo Persico, il Mar Caspio e il Mediterraneo. Non una frontiera separava tutti i popoli di quell'enorme area. Queste persone erano le figlie di uomini che avevano vissuto in tutti i precedenti imperi, avevano le stesse eredità razziali, le stesse culture, lingue, costumi, ma ora non credevano più negli dei pagani, sapevano di essere liberi. La prima cosa che gli uomini vogliono fare è attaccare il mondo materiale. Per vivere devono attaccarlo. Lo scopo naturale dell'energia umana è rendere questa terra abitabile per gli esseri umani. Quando nessuna falsa credenza ostacola l'energia umana alla sua fonte nell'individuo, gli uomini attaccano questa terra per adattarla ai bisogni e ai desideri umani. Allora hanno bisogno della conoscenza scientifica, che è la conoscenza del mondo materiale. Gli scienziati, rifugiati in Persia, erano ormai popolari, rispettati, ammirati, ascoltati. Nessuna autorità li reprimeva, nessuna polizia li prendeva a calci. E aprirono le loro scuole. Da Baghdad a Granada le loro scuole erano affollate di studenti. In 2 secoli erano grandi università, le prime nel mondo. Per centinaia di anni queste università sono cresciute. L'Università del Cairo aveva più di 1000 anni e contava ancora 40.000 studenti quando io ci sono stata. Queste università non avevano alcuna organizzazione, alcuna autorità. Maometto diceva che l'organizzazione corrompe la conoscenza. Un'università saracena non aveva un programma né un curriculum né dipartimenti né regole né esami, non dava né lauree né diplomi. Era semplicemente un'istituzione dove si apprendeva, non di insegnamento ma di apprendimento. Un uomo, giovane o vecchio, si recava in un'università per imparare ciò che voleva sapere, proprio come un americano va in una drogheria per procurarsi il cibo che desidera. Gli uomini che sapevano o pensavano di sapere qualcosa e volevano insegnarla, aprivano una scuola per vendere le loro conoscenze. Il successo dipendeva dalla richiesta delle loro conoscenze. Se il successo arrivava, altri insegnanti si univano a loro. Così le scuole divennero università e, secolo dopo secolo, uomini di grande spirito pubblico aggiunsero dipartimenti, così come i singoli individui e gruppi di alunni aggiungono dipartimenti alle università americane. Gli insegnanti tenevano lezioni in aule aperte e chiunque poteva ascoltare. Uno studente in arrivo si aggirava per ascoltare e quando decideva di scegliere l'insegnante che desiderava, discutevano privatamente di ciò che lui voleva imparare e voleva studiare e si accordavano sulle tariffe. Poi si univa regolarmente alla classe. Se non era soddisfatto, poteva abbandonare in qualsiasi momento e trovare un altro insegnante. Quando aveva imparato ciò che voleva sapere, lasciava l'università per mettere a frutto le sue conoscenze. Senza dubbio, i suoi insegnanti gli avrebbero dato lettere di presentazione se le avesse volute. 1000 anni dopo che i saraceni costruirono queste università, lontano nel tempo in un continente di cui non conoscevano l'esistenza, un leader rivoluzionario, Thomas Jefferson, che sapeva poco o nulla dei saraceni, realizzò il sogno della sua vita quando creò l'Università della Virginia. Il suo sogno era un nuovo tipo di istruzione. Con orgoglio, quasi vantandosi un po', scrisse a un amico del sistema universitario medievale di Harvard: permetteremo loro, agli studenti, una scelta incontrollata delle lezioni che sceglieranno di seguire. La nostra istituzione procederà secondo il principio di lasciare che ognuno venga ad ascoltare qualsiasi cosa ritenga possa migliorare la condizione della sua mente. Per più di 900 anni l'Università del Cairo si è basata proprio su questo principio. Fino alla fine del XIX secolo gli europei non sono stati in grado di imporre a quell'università alcuna sfumatura della convinzione europea secondo cui le menti acquisiscono la conoscenza, non cercando attivamente di sapere, ma ricevendo passivamente l'insegnamento di ciò che l'autorità decide che debbano sapere. In queste università gli insegnanti offrivano tutto l'apprendimento del passato tradotto in arabo. Gli studenti in generale non volevano la metafisica ma la scienza. Volevano Aristotele, Galeno e Euclide e tutto il sapere che si era giunto a loro. I greci e i romani avevano visto in India i simboli indù dei numeri, ma gli europei usavano ancora i goffi numeri romani che non consentono l'aritmetica e continuavano a fare addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni facendo scattare delle palline lungo dei fili, come fanno ancora i cinesi. Anche i saraceni lo facevano. Ora che si sono impadroniti dei numeri indù, non hanno ostacolato le loro menti o le loro azioni. Gli americani chiamano queste cifre arabe, numerano queste pagine, in ogni macchina da scrivere ce n'è una fila, alla cui estremità c'è un cerchio, lo zero. Le menti libere dei saraceni afferrarono per la prima volta questo concetto, lo zero. Nulla. Un'assenza di qualsiasi numero che è un numero, aggiunsero lo zero ai nuovi numeri conosciuti. Qualsiasi matematico vi dirà che senza lo zero non potrebbe esistere la matematica. Senza lo zero gli americani non avrebbero l'ingegneria, la chimica, l'astronomia, la misurazione della sostanza o dello spazio. Senza lo zero non potrebbero esistere un grattacielo, una metropolitana, un ponte, un'autostrada moderna. Un'automobile, un aereo, una radio, una rete idrica cittadina o il rayon o il celofan o l'alluminio o l'acciaio inossidabile o un'onda permanente. Non potrebbe esistere la scienza moderna, il mondo moderno, senza lo zero. Avendo lo zero, i saraceni svilupparono l'aritmetica e aggiunsero l'algebra e i quadrati. Alla geometria di Euclide aggiunsero la geometria piana e sferica. Applicando questa matematica al Sole, alla Luna, alle stelle, produssero l'astronomia. In tre continenti costruirono osservatori, inventarono il sestante, la bussola magnetica e calcolarono con precisione la latitudine e non altrettanto accuratamente la longitudine. Dedussero la forma e il movimento della Terra che gira intorno al suo asse e al Sole e ne misurarono le dimensioni. Se un navigatore saraceno morto 800 anni fa potesse trovarsi oggi nella sala delle carte nautiche della Queen Mary, ammirerebbe profondamente i dettagli, le stampe, i cambiamenti delle carte, ma non avrebbe più difficoltà a capirle di quante ne abbia avute un uomo che conosceva i carri a buoi nel capire la prima carrozza che vide. Un capitano saraceno potrebbe prendere le carte e gli strumenti della Queen Mary e far navigare quel piroscafo attraverso l'oceano oggi. L'unico strumento che lo lascerebbe perplesso sarebbe la girobussola Sperry. Potrebbe usarla, ma non capirebbe l'energia elettrica che la fa girare. I saraceni diedero agli europei l'informazione che la Terra è rotonda, le sue misure, il sestante, la bussola magnetica e i portolani, le mappe e le carte che Colombo portò con sé nei suoi viaggi. Hanno anche fatto più di chiunque l'altro per rendere gli americani sani. Per prima cosa tradussero le opere di Galeno in arabo, poi fecero molte ricerche originali in medicina e chirurgia. 900 anni fa utilizzavano l'intera farmacopea medica americana di oggi, ad eccezione dei composti chimici scoperti di recente. Non c'è stato un altro grande progresso nella medicina dal tempo dei saraceni al secolo americano. Dal Gange all'Atlantico, i saraceni costruirono scuole di medicina e ospedali. Uno di questi si trovava a Salerno. Non trovo alcuna autorità per affermare che gli europei abbiano imparato la medicina e la chirurgia da questa scuola. Tuttavia, mentre questa scuola fioriva in Italia, a Salerno, gli italiani costruirono i primi ospedali d'Europa. Nel giro di una settimana, dalla grande scuola di medicina e chirurgia dei Saraceni, gli italiani eseguirono le prime operazioni chirurgiche in Europa. Dubito che anche nel Medioevo un medico abbia aperto un paziente importante e pagante senza avere un'idea di ciò che avrebbe trovato. Non poteva impararlo in Europa, dove proprio in quel periodo la Chiesa proibiva la dissezione. E quando vengo a sapere che questi pazienti sono guariti da operazioni di rimozione di calcoli biliari, non penso che un risveglio della scienza, tra virgolette, abbia salvato le loro vite. Penso che i medici italiani avessero studiato chirurgia nell'ospedale scuola di chirurgia dei Saraceni. Per queste operazioni utilizzavano anestetici locali. I Saraceni avevano scoperto l'anestesia locale. Il successivo grande attacco al dolore fu la scoperta dell'anestesia generale nel Massachusetts General Hospital negli Stati Uniti d'America alla fine del XIX secolo. Nella Milano del XIII secolo i medici e i chirurghi italiani stavano realizzando guarigioni che tutti gli altri europei consideravano miracoli. Allo stesso tempo, i dogi di Venezia decretarono, e si suppone abbiano inventato, la quarantena, sia per le malattie contagiose che per quelle infettive. È un'ispirazione strana che arriva a uomini che avevano sempre creduto che le pestilenze fossero l'ira di Dio sfogata sull'umanità. Sia Milano che Venezia erano città commerciali fiorenti che prosperavano interamente grazie al commercio con i saraceni. In effetti, l'intero Rinascimento, la rinascita del sapere in Europa, è inspiegabilmente sorto in Italia, quella lunga e stretta penisola con la civiltà saracena che brillava sulla sua punta e ogni suo porto si apriva al mare dei Saraceni. Esattamente 100 anni dopo la morte di Maometto, i Saraceni si spostarono nella Francia centrale, nei pressi di Tours, si scontrarono con un esercito di europei riunito in fretta e furia. Sconfitti nell'unica battaglia, si ritirarono in Provenza e in Spagna. Non attaccarono più l'Europa. I fanatici cattolici europei consideravano i saraceni come l'anticristo, il diavolo in terra. I saraceni consideravano gli europei dei barbari. Alcune bande di cattolici rimasero nei desolati e aridi Pirenei e a volte disturbarono la frontiera spagnola. Per 500 anni le guardie di frontiera li hanno tenuti fuori dalla Spagna. In Spagna i saraceni costruirono grandi centri di scienza, arte, produzione e commercio, Cordoba, Granada, Siviglia. Dall'India, dall'Africa e dal Catai gli studenti venivano nelle università spagnole e dalla Spagna andavano nelle università di Baghdad e Delhi. I contadini della ricca Spagna meridionale riversavano nelle città una crescente abbondanza di alimenti e materie prime. E dalla città usciva una crescente ricchezza di merci, lane, tessuti, cotoni e sete, mosaici, smalti, porcellane, vetri, guanti. Le navi si affollavano nei porti, scaricando spezie, avorio, canfora dalle isole delle Spezie, acciaio temperato e ottone finemente lavorato da Damasco, cavalli dall'Arabia e selle di pelle più morbida del velluto dal Marocco attraverso lo stretto. 500 anni. La Spagna saracena era 3 volte più vecchia di questi Stati Uniti, quando dall'Europa più oscura Papa Urbano II inviò mezzo milione di fanatici ad attaccare i saraceni in Palestina. Questa aggressione immotivata diede inizio a una guerra mondiale che durò fino a quando gli Stati Uniti non sottomisero i pirati barbareschi nel Mediterraneo. Pirati lo erano, senza dubbio, ma non lo sapevano. Pensavano di combattere gli europei che li avevano attaccati per primi. I cronisti europei di questa guerra ci offrono quasi solo uno sguardo sul mondo dei saraceni. La causa di questa guerra fu una lotta per l'autorità in Europa. La Chiesa era divisa, c'erano due papi e Papa Urbano era il più debole. Nessuno sa con certezza quali fossero le motivazioni che lo spinsero a iniziare le crociate. Sembra che volesse i 3 risultati che ottenne. Le crociate gli permisero di spodestare l'altro papa, diminuirono le uccisioni in Europa e durante l'assenza dei combattenti la Chiesa divenne l'autorità. C'era una buona ragione per le crociate. È davvero dubbio che gli europei sarebbero sopravvissuti se il Papa non si fosse sbarazzato dei baroni. Le loro guerre incessanti stavano uccidendo troppa gente per fame. Per più di un secolo la Chiesa ha decretato la pace in Europa. Prima i papi dichiararono la pace di Dio, nessuno ci fece caso. Poi decretarono la tregua di Dio, un lungo fine settimana dal mercoledì sera al lunedì mattina. Se le classi dominanti si concedessero questa vacanza ogni settimana, gli uomini comuni potrebbero coltivare e commerciare il giovedì, il venerdì e il sabato. La domenica era naturalmente il giorno di Dio e il lunedì, il martedì e il mercoledì le classi dominanti potevano continuare a cercare di spostare le loro frontiere e a uccidere i contadini e i commercianti degli altri. Ma la Chiesa non era ancora abbastanza forte per far rispettare questa tregua di Dio. Il mondo saraceno era allora pacifico, ad eccezione di una lite familiare tra i turchi, pagani appena convertiti che avevano da poco conquistato Baghdad. L'imperatore cristiano di Costantinopoli stava combattendo contro i barbari nell'attuale Ungheria. In Europa, il Papa Urbano II convocò tutti i baroni in un grande concilio e pronunciò un discorso che li mandò su tutte le furie. Li invitò a salvare la tomba di Cristo dai figli del diavolo e concesse il perdono completo di tutti i peccati a chiunque vi si fosse recato e l'ingresso immediato in paradiso a chiunque fosse morto sulla strada per uccidere gli infedeli. Gli europei in lotta iniziarono subito quello che gli storici chiamano lo straordinario fenomeno delle crociate, un'esplosione di avidità e di politica molto pratica e di un naturale desiderio di uscire da quell'Europa verso il cielo che durò per 2 secoli. Libera la Terra Santa era lo slogan. I musulmani detenevano la Terra Santa da 500 anni e i cristiani adoravano quei santuari che i musulmani custodivano con reverenza. I santuari cristiani sono santuari musulmani e Gerusalemme è sempre stata una città santa per i musulmani che venerano Abramo, Mosè, Gedeone, Samuele e Cristo come profeti di Dio. I saraceni avevano posto la guardia, che ancora oggi si trova o si trovava quando ero a Gerusalemme, presso la chiesa del Santo Sepolcro. Notte e giorno, per più di 1.000 anni, un musulmano armato è rimasto lì per impedire ai cristiani di uccidere i cristiani delle altre sette rivali sulla tomba di Cristo. Nel giorno più santo dell'anno cristiano, la guardia si ritira. Per le 24 ore del giorno di Pasqua, nessuna preferenza infedele profana il sepolcro da cui Cristo è risorto. Poi avviene il miracolo. Il fuoco della tomba accende le candele nell'oscurità e i cristiani si uccidono tra loro. Ogni anno, al tramonto del giorno di Pasqua, la guardia musulmana torna al suo posto e la polizia di Gerusalemme porta fuori dalla chiesa del Santo Sepolcro i cadaveri dei cristiani, a volte centinaia di corpi, a volte solo decine. Esistono circa 200 sette di musulmani, non hanno mai litigato nella moschea di Omar, il santuario di Maometto a Gerusalemme. Nessun cristiano vi fa la guardia. Quasi mezzo milione di crociati attraversò il Bosforo durante la prima crociata. L'imperatore Cristiano di Costantinopoli era solidale con i saraceni, fece di tutto per ostacolare, tormentare e dividere i crociati, liberandosene al tempo stesso. I saraceni furono sconfitti e Nicea assediata. L'imperatore si alleò con i difensori saraceni e trasferì le proprie truppe in città. I crociati proseguirono verso Antiochia e la assediarono. Devastarono così a fondo il paese circostante che quasi morirono di fame. Sotto gli occhi delle guardie sulle mura di Antiochia cucinarono e mangiarono i saraceni che avevano ucciso. Ma non furono loro a prendere Antiochia. Fu un comandante cristiano delle truppe musulmane nella città musulmana assediata che tradì l'esercito. Fece entrare i cristiani segretamente di notte, che massacrarono tutta la popolazione. I corpi in decomposizione nelle strade e nei pozzi causarono una misteriosa malattia che ne uccise migliaia. Poi i crociati proseguirono verso Gerusalemme, trovando sul cammino solo villaggi e città deserte. Dalle città fortificate e inespugnabili, gli emiri inviarono ambasciate che si offrivano di pagare i crociati per non disturbarli. Un inviato del sultano d'Egitto che deteneva Gerusalemme li incontrò, portando il suggerimento del sultano di adempiere al voto fatto al Papa, entrando a Gerusalemme pacificamente come pellegrini. I crociati si muovevano con cautela in questo paese di magia. Certamente erano circondati dai figli o dagli stretti alleati di Satana stesso, perché molto prima che la notizia potesse raggiungere questi infedeli con qualsiasi mezzo terreno, loro già sapevano che i crociati stavano arrivando. Con le guide cristiane che si unirono a loro lungo il cammino, i crociati proseguirono verso Gerusalemme. A sud di Beirut si verificò un miracolo. Sopra le loro teste, in volo, un falco ferì un piccione. Il piccione cadde a terra. Attaccato alla zampa c'era un cilindretto d'argento contenente una cosa strana, sconosciuta ai crociati. Un pezzo di carta con dei segni. I siriani cristiani spiegarono che si trattava di scrittura araba e la lessero. L'emiro di Acca, il signore di Cesarea, saluto, una razza di cani stupidi e litigiosi è passata davanti a me muovendosi senza ordine. Poiché ami la fede, fai ciò che puoi e fai fare ad altri tutto ciò che è in loro potere per danneggiarli. Manda questa parola ad altre cittadelle e fortezze. In 2 anni i crociati avevano combattuto 2 battaglie aperte e alcune scaramucce. Avevano assediato senza successo 2 città e preso Antiochia col tradimento. Dei 426.000 crociati che avevano invaso il paese, 30.000 raggiunsero la Palestina. Trovarono palmeti, vigne, frutteti di fichi, villaggi e città, e la città di Ramla, dalle pareti bianche, deserte. Un centinaio di crociati entrarono in Betlemme e la trovarono una città cristiana costruita intorno alla cattedrale della Vergine Maria. La gente, i sacerdoti e i monaci li intrattennero degnamente. Tornarono a Gerusalemme e giunsero alla tranquilla chiesa della Beata Madre di Cristo nel giardino del Getsemani sul Monte degli Ulivi. Per 5 settimane attaccarono Gerusalemme dalle mura grigie sulle sue alture, hanno battuto le sue mura con ogni mezzo bellico conosciuto. Da 30 miglia di distanza hanno trasportato legname e costruito torri di 30 piedi e sotto una pioggia di massi e di pece e di fuoco greco hanno avanzato le torri e si sono precipitati attraverso ponti levatoi infuocati in combattimenti corpo a corpo sulle cime delle mura. Presero Gerusalemme e per 2 giorni e 2 notti massacrarono uomini, donne, bambini, neonati nelle case, nei vicoli, sui tetti, intorno alla moschea di Omar, dove la pavimentazione è piatta. I loro cavalli si lanciavano alla carica immersi nel sangue. Solo un gruppetto dei tanti cristiani di Gerusalemme, rannicchiati nell'estremo terrore di fronte a questi sanguinari assassini e incapace di far capire loro una lingua sconosciuta, improvvisamente cantò in greco una parte di una messa cristiana e i crociati, riconoscendola, si scansarono e li lasciarono vivere. Gerusalemme dunque era uno dei regni feudali che i crociati stabilirono durante le crociate successive in Palestina e Siria e purtroppo per gli armeni cristiani in Armenia Minore. Questi regni durarono per circa 80 anni. I saraceni non li attaccarono. I re cristiani tennero Gerusalemme per anni con meno di 100 soldati. Prima che i crociati raggiungessero Gerusalemme, avevano cominciato ad adottare l'abbigliamento musulmano. In pochi anni vivevano, mangiavano, si comportavano come musulmani. I loro figli erano nati in questi regni. I regni dei crociati diventarono così tolleranti da permettere ai musulmani di praticare il culto nelle chiese cristiane. Come mai i crociati trovarono così tanti cristiani che vivevano tra gli infedeli? Perché i cristiani vivevano lì da sempre, facevano parte del mondo dei saraceni. I musulmani non sterminarono le persone con un credo religioso diverso. Sono ancora qui, nelle terre che i musulmani hanno tenuto per 1000 anni: armeni, albanesi, greci, copti, maroniti, drusi, ebrei, parsi, yezidei, indù, per citarne solo alcuni. Sono stati gli europei a massacrare gli eretici, fino all'ultimo neonato i cui genitori avevano la minima consapevolezza che la mente degli uomini è libera. Gli europei massacrarono gli albigesi, i valdesi, i socinani, gli ugonotti, i covenanter e molti altri gruppi. 500 anni dopo le crociate, protestanti e cattolici fuggivano nelle terre selvagge americane per salvarsi dal fanatismo europeo. Prima di prendere Gerusalemme, i crociati avevano incontrato i saraceni solo una volta in battaglia aperta. Da quel giorno li rispettarono. A differenza dei randagi europei, i combattenti saraceni erano veloci come il vento, indossavano elmi leggeri di acciaio damascato e un'armatura di maglia d'acciaio dorato, che fermava una freccia, ma era così sottile che un'intera armatura si accartocciava in un pugno. Erano magri, agili, veloci e cavalcavano piccoli cavalli rapidi come le loro spade, sottili e flessibili. Attaccavano il fianco dell'esercito nemico, ruotavano, si formavano e attaccavano di nuovo con incredibile velocità. Le schiere della cristianità, armate e corazzate con il ferro, caricarono dritte in avanti con un ruggito a pieni polmoni. Dio lo vuole! Ma i saraceni, sotto i loro sventolanti stendardi di seta verde, si lanciarono come un'onda e colpirono al fianco, lanciando grida ululanti che ai crociati sembrarono ululati di lupi. La illa la ilaha illallah. C'è un solo Dio. Quando i crociati uscirono da Gerusalemme per attaccare Ascalon, stavano già adottando le tattiche di battaglia dei saraceni. Non erano ancora in grado di indovinare l'uso di gran parte del loro bottino. Ad Antiochia il loro smarrimento fu pietoso. Si sedevano sui letti e balzavano in piedi, terrorizzati da un movimento sotto di loro. Non avevano mai visto un materasso. Non sapevano come comportarsi con i drappeggi, i tappeti, i cuscini, le sete, i lini, le pelli, i metalli sconosciuti, gli strani utensili e i vestiti. I tessuti sembravano magici, chiffon che si appiccicavano alle dita come ragnatele e, dicono le cronache, una seta che cambiava colore. Annusarono strani liquidi in curiosi contenitori, non sapevano cosa fosse una lampada a olio, assaggiavano con gusto sostanze sconosciute, una polvere bianca, deliziosa, ma forse velenosa, non avevano mai sentito parlare di zucchero. In piccole scatole d'oro e in tubetti con tappi ingioiellati c'erano altre sostanze dal sapore strano, non avevano mai visto cosmetici. Le donne saracene usavano tutti i cosmetici che usano le donne americane e qualcuno in più. Nessun'altra donna nella storia è mai stata così curata fino a questa generazione di donne americane. Ad Antiochia, di nuovo a Gerusalemme, i crociati, i cui castelli erano costituiti da rudimentali muri di pietra e pavimenti di terra o di pietra umida ricoperti da fitte canne marcescenti, entrarono in stanze belle come gioielli, con i pavimenti piastrellati, le pareti e i soffitti di mosaico. Accanto a un divano basso, coperto da un lino teso e candido, si trovava un tabouret d'ebano. La punta di un dito non riusciva a percepire i merletti di madreperla incastonati nella parte superiore. Una delicata grata di un legno sconosciuto permetteva misteriosamente di guardare fuori dalla finestra, anche se nessuno poteva guardare dentro, e un leggero profumo proveniva da questa grata. Era legno di sandalo. Chiedendo e rovistando, scrutando nei nascondigli, trascinando fuori e uccidendo qualsiasi cosa che tremasse un bambino o uno schiavo, i crociati si imbatterono in oggetti che sembravano fatti di un qualche tipo di gioiello. Possibile che in questo paese ci fossero così tanti gioielli, così grandi? Questi vasi erano trasparenti, ma non erano gioielli. Se ne afferrava uno, si frantumava in pezzi che tagliavano la mano. Era il vetro. Era un paese di maghi. Tutti gli europei avevano sentito dire che lo era. Ma la cosa più sorprendente per i crociati doveva essere la pulizia. Oggi gli americani sono il popolo più pulito della terra.